Salva Danaio di Deborah Rosciani. Una buona giornata a voi tutti da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio. In molti hanno osservato, a ragione, che è iniziato, non certo casualmente, a Roma il roadshow, il giro fra le capitali e fra i maggiori investitori del governo argentino per presentare la nuova offerta di Buenos Aires sul debito residuo. E ritorniamo dunque su una questione vecchia, ma che per moltissime famiglie italiane è ancora una ferita totalmente aperta. Questa offerta del governo argentino è partita ieri. Si concluderà il 7 giugno e dall'Argentina è arrivato un vero e proprio ultimatum, un prendere o lasciare definitivo ai risparmiatori che detengono ancora le obbligazioni argentine che sono andate in default nel 2001. E il monito è stato chiaramente indirizzato a quei risparmiatori che non hanno aderito alla prima proposta di concambio argentina, quella del 2005 che, ricorderete, abbiamo affrontato in tantissime puntate di Salva Danaio. Adesso si ripropone il dilemma di allora, dilemma che molti definirono come il cosiddetto dilemma del prigioniero. Ieri, peraltro, lo hanno ricordato anche molte associazioni dei consumatori, ovvero quella situazione tipica studiata in economia nella quale l'esito di una scelta dipende dal comportamento degli altri. Nel 2005 le condizioni di scambio proposte furono ritenute al limite dello scandalo. Praticamente quasi tutti gli obbligazionisti italiani non la accettarono e si affidarono al lavoro della Task Force argentina, guidata da Nicola Stock, che perseguiva e lo fa tuttora l'obiettivo di recuperare totalmente quegli investimenti aggredendo i beni argentini. Oggi però, visto che i risultati del lavoro della TFA non si vedono e non si vedranno prima di qualche tempo, c'è questo maxi ricorso a questo tribunale internazionale, l'ICSID di Washington, e peraltro se anche dovessero vedersi dei risultati, chissà che risultati saranno, perché potrebbero essere molto soddisfacenti o totalmente insoddisfacenti per gli obbligazionisti italiani. E allora questo che cosa sta determinando? Una crescita del malcontento tra gli investitori che sono ancora in possesso di queste obbligazioni che non si sa bene che valore abbiano, e adesso ovviamente cresce anche la tentazione di aderire a questa seconda offerta, una tentazione che si sta facendo molto forte. Oggi cerchiamo di capire in cosa consiste questa nuova offerta, come ripeto, che è stata presentata ieri dal ministro delle finanze argentino che era a Roma. Poi sentiremo alcuni stralci del suo intervento di ieri in questa conferenza stampa che è stata organizzata all'ambasciata argentina. E poi, ovviamente, noi lo, come dire, chiariamo dall'inizio: è molto difficile dare un suggerimento di comportamento, non lo possiamo fare. È anche molto complicato fare dei calcoli di convenienza economica rispetto a questa chance. Cercheremo di orientarci come meglio potremo fare questa mattina con due interlocutori. La Task Force argentina ha ritenuto di non partecipare, almeno in questo momento, alla nostra trasmissione, perché sta ancora valutando, anche in base al prospetto, le condizioni della seconda offerta, e probabilmente si tratta anche di stabilire una strategia più complessiva rispetto a tutto l'operato del lavoro della TFA di questi anni. Allora, una situazione abbastanza complessa che ieri ha visto una nuova novità e di cui parleremo stamattina intanto con il nostro corrispondente da Buenos Aires, corrispondente per il Sole 24 Ore, il collega Roberto Darin. Che saluto. Roberto, ciao, buongiorno, bentornato. Buongiorno da noi. A tutti. E poi saluto di nuovo con noi, ovviamente, come sapete, sono totalmente mobilitate su questa faccenda tutte le associazioni dei consumatori, e noi abbiamo richiamato con noi l'avvocato Paolo Fiorio, legale del Movimento dei Consumatori. Avvocato, bentornato anche a lei a Salva Danaio. Buongiorno a tutti. E grazie. Allora, 800 24 0024 è il numero verde per gli ascoltatori che vogliono intervenire su questo argomento. Io peraltro, tra anche un po' tutti coloro che sono anche tanto stanchi di sentir parlare di questa vicenda di cui non si viene a capo, spero che ci sia ancora qualcuno all'ascolto che vuole intervenire. Noi abbiamo uno zoccolo duro di ascoltatori che ci sollecita spesso a fare trasmissioni su questo argomento per tornare anche a sollecitare magari il governo ad un'iniziativa più incisiva nei confronti dello Stato argentino. La parte politica è un'altra parte molto interessante di tutta questa vicenda che meriterebbe una puntata a sé. Noi oggi ci limitiamo, ripeto, a rispiegarvi un po' le condizioni di questa offerta e a cercarvi di dare una mano per capire se a questo punto conviene davvero prendere o lasciare, come il governo argentino ha detto, suggerendo appunto ai risparmiatori italiani di fare. Prima di entrare nel merito della questione argentina, rapidamente la borsa, bruttissima giornata. Oggi le borse europee erano partite malino, ma poi hanno peggiorato vistosamente nel corso della mattinata. Milano perde 2 punti, Parigi -1,47, Francoforte -0,8, Londra -1,17. Perché? Perché la stampa internazionale sta facendo nuove stime sull'entità della crisi greca e pare che, altro che 110 miliardi che sono stati stabiliti dall'Eurogruppo, gruppo, dal Fondo Monetario Internazionale per questo salvataggio. Potrebbero essere molti di più i soldi che il governo greco ha bisogno, di cui ha bisogno appunto per poter ripagare i debiti e quindi onorare anche le obbligazioni in scadenza in maniera imminente, rimettere in piedi i conti. E su questa prospettiva stamattina borse giù, l'euro che continua a scendere a 1,3131, siamo ai minimi da oltre un anno, e poi insomma preoccupazioni di vario genere che oggi sono tornate ad alimentare le vendite. Nessun titolo positivo sul FTSE MIB 40, i titoli che perdono meno: Terna meno 0,16, Parmalat meno 0,32, Campari meno 0,45. I cali più forti sono sulle banche: Intesa meno 3,60, Fiat meno 3,60, STM meno 3,38, Mediolanum meno 3,37, meno 3 per Azimut, Banco Popolare, Unicredit ed Exor. Sulla galassia Fiat pesano i dati sulle matricolazioni auto di aprile, che sono stati diffusi ieri sera, pesantissimi. Appunto, aprile è finito tutto il pacchetto degli incentivi messi a disposizione per il settore e di conseguenza vendite a picco. Ce lo aspettavamo, lo sapevamo, ma in ogni caso il titolo viene penalizzato lo stesso. Lasciamo la borsa e noi invece adesso ritorniamo a parlare di questa questione che ci trasciniamo dietro dal 2001, ritorniamo a parlare appunto della questione argentina. E allora, come vi dicevo, la motivazione che ci ha riportato di nuovo su questo argomento è stato l'inizio di questo tour per paesi e per investitori internazionali del ministro delle finanze Boudou, che ieri ha cominciato questo tour in Italia per tentare di far ragionare, almeno così dicono loro, comunque di convincere i risparmiatori italiani che non hanno aderito alla prima offerta di scambio del 2005 del governo argentino. Adesso il governo argentino dice: noi ve ne presentiamo una seconda, non è che le condizioni siano molto migliori, perché c'è una legge che ci impedisce appunto di presentare un'offerta migliorativa. Questa è però l'ultima chance che vi diamo, prendere o lasciare. Allora, noi sentiamo Amado Boudou, ministro dell'economia e delle finanze argentino, vi ribadisco, ieri a Roma, che spiega proprio il motivo per cui questo tour internazionale è iniziato dalla capitale italiana. Para nosotros era muy importante iniciar este camino acá en Roma. Per noi è molto importante dare inizio a questo cammino qui a Roma, perché in Italia vi è stato un numero elevato di investitori, 180.000 detentori individuali che avevano investimenti per $50.000 o per cifre addirittura inferiori. Tuttavia è importante iniziare questo processo in Italia non solo per l'aspetto finanziario, ma anche perché questo paese ha rapporti storici con l'Argentina, che sono sempre stati ottimi. Abbiamo una storia e dei sentimenti che ci legano. È anche per questo che abbiamo deciso di risolvere la situazione partendo dall'Italia. Nel 2005 gli investitori italiani sono stati forse mal consigliati, oppure per paura che l'Argentina ancora una volta non potesse adempiere ai propri obblighi, non hanno aderito all'offerta. Le altre parti dell'intervento del ministro Boudou le sentiremo dopo. Intanto comincio la mia chiacchierata con i miei ospiti di stamattina. Roberto Darin, corrispondente da Buenos Aires per Il Sole 24 Ore. Allora, ritorniamo su questo argomento, chissà quando finiremo questo giro di chiacchierate, Roberto, su questa faccenda che sembra interminabile, sembra non avere fine, ma questa potrebbe davvero essere l'ultima chance per le famiglie italiane che hanno ancora in mano questi titoli e per tutti gli altri investitori appunto internazionali che negli anni non hanno avuto modo, non hanno voluto liberarsi appunto dei titoli finiti in bancarotta nel 2001. Insomma, il clima in Argentina, tu ce l'avevi spiegato molto chiaramente anche nell'ultima puntata, è proprio questo in sostanza. Si plaude notevolmente anche a livello interno a questa nuova proposta che il governo argentino sta facendo a livello internazionale. Sì, la proposta sembrerebbe ultimativa dalle parole del Ministro dell'Economia e da quanto appare ogni giorno su tutta la stampa argentina. Le offerte, come tu hai già raccontato bene, sono due: un titolo denominato discount, orientato agli investitori istituzionali, uno denominato par, mirato ai risparmiatori piccoli. Di taglio più piccolo, sì. Di taglio più piccolo, e l'offerta certamente non è migliorativa rispetto a quella del 2005, ma alla fine, come un ascoltatore proprio nell'ultima trasmissione Date Condotta, a cui ho partecipato anch'io raccontava chi ha aderito nel 2005 ha già recuperato il 55% del proprio investimento e continua a percepire degli interessi. Quindi, che dire, tu hai detto bene, noi non possiamo dare consigli, però ci dispiace molto che non ci sia qualche rappresentante della task force argentina che possa prefigurare un'alternativa a chi dovesse decidere di non accettare questa offerta, che ripetiamo dovrebbe essere ultimativa e che comunque dà degli interessi, paga degli interessi in contanti e poi non prevede un taglio, almeno per chi ha un investimento non superiore a 50.000 dollari, infatti, più o meno 40.000 euro. Poi entriamo con l'avvocato Fioro proprio nel merito delle caratteristiche di questi due titoli offerti adesso come proposta di concambio, e però in sostanza, sì, dicevi tu, sarebbe bene chiarire che tipo di alternativa offre la TFA di fronte a questa offerta del governo. L'alternativa l'ha sempre detta chiaramente, c'è cioè questo maxi ricorso al Tribunale Internazionale, l'obiettivo è aggredire i beni argentini e permettere a chi si trova appunto in queste condizioni di non aver ricevuto niente dal 2001 di ripagarli praticamente del tutto. Ma è una strada molto molto tortuosa, Nicola Stock ce l'ha spiegata più volte, e a questo punto questi due mesi saranno cruciali anche per definire i destini di questo organismo, noi immaginiamo. Ovviamente, se Nicola Stock, che sono sicura è all'ascolto della trasmissione, volesse intervenire da un momento all'altro, ha l'opportunità di farlo. Ma poi, tra l'altro, da qui al 7 giugno sono sicura che avremo modo di fare almeno un altro paio di puntate su questo argomento, di seguire progressivamente l'andamento della raccolta delle adesioni. Ci hanno raccontato, ho letto da qualche parte peraltro, che sarà reso disponibile un call center dedicato a questa offerta. Chi se ne incaricherà dell'organizzazione non è dato sapere, bisognerà vedere appunto chi sarà, dove sarà il fulcro di questa iniziativa. Eccoci ritrovati a Salvadanaio, che oggi ritorna sul tema dell'Argentina e questa nuova proposta che il governo di Buenos Aires ha lanciato, questa nuova offerta partita ieri, si concluderà il 7 giugno, e che il ministro delle finanze argentino sta facendo conoscere un po' tra le capitali internazionali e maggiori investitori, e in sostanza per tutti coloro che non avevano avuto restituito l'investimento fatto tra la fine degli anni 90 e il 2000 e poi sostanzialmente finito in default nel 2001, ecco, c'è questa seconda opzione che si apre per chi non ha aderito alla prima offerta di scambio fatta dall'Argentina appunto nel 2005. Seconda chance, il governo argentino ha detto chiaramente, prendere o lasciare, non ci saranno altre opportunità, e qua sono caduti nel dilemma molti investitori italiani. Parliamo di circa 180.000 famiglie, molte delle quali in possesso di Tango Bond per quasi 4 miliardi e mezzo di dollari su 19 totali appunto da rinegoziare. Allora, avvocato Fiorio, ancora buongiorno, le faccio sentire una considerazione di un ascoltatore di Milano che è poi il tema dal quale sarei voluta partire con lei. Sentiamo Gianluca, buongiorno. Buongiorno a lei, sono in onda, credo. Sì, sì. Ecco, intanto una premessa interessante, credo, anche per gli ascoltatori. Bello non è quando uno presta dei soldi a uno Stato sovrano, vedisi anche Grecia, e poi si rende conto che questi, per qualche motivo, chiaramente quasi sempre politici e di avidità, chiede di fare un bel o default come l'Argentina o X come potrebbe essere un'altra eventuale nazione. Eh sì, lo so, abbiamo discusso tante volte su questo. Proprio lo scandalo più forte è stato proprio relativo al fatto che effettivamente è stato uno Stato sovrano che si è sentito, come dire, nel diritto di non legittimare gli impegni presi nei confronti degli investitori internazionali. Però Gianluca, detto questo, questa ormai non è acqua passata, è acqua che ancora c'è, però detto questo... Detto questo cappello, è necessario anche dire che se uno proprio va in default, almeno ha avuto, come l'Argentina, la forza di darmi un titolo, un pezzo di carta che è vero che di nominale facciale vale 30 lire, ma che ha scadenza, che il titolo par, sto parlando, sì, l'obbligazione par, che a scadenza dovrebbe rendere completamente il capitale. Quindi è vero che d'accordo non ce l'ha fatta, però almeno mi ha detto guarda che se vuoi ti do un foglio di carta. Il punto non è tanto questo, che è positivo, in effetti questo è positivo e anche auspicabile per gli investitori che finora non li hanno ancora, diciamo, sottoscritti questi nuovi bond, però è fondamentalmente credo che uno Stato come l'Argentina, insieme magari a qualche altro ente magari del nostro Stato, avrebbe potuto congegnare qualche operazione finanziaria legata sempre a questi bond migliorativa. Cioè, per esempio, faccio un esempio, se uno ha preso i par come me, gli è stato dato un titolo più un titolo aggiunto che è legato al PIL, alla crescita dell'economia. Esatto, ecco, quindi diciamo ti do anche l'opportunità, se io vado bene, di guadagnare qualcosa in più, e questo è già buono. Però quantomeno io avrei auspicato un qualcosa del genere. Dice sì, ma io sono italiano e quindi tu come nazione italiana non è che me ne cominci a comprare un po' di questi tango bond, perché altrimenti va a finire che io valgono sempre dai 25 ai 30, perché se un domani il costo del denaro aumenta... Chi le dovrebbe comprare, mi scusi? Mi sente? No, l'ho sentita, non ho capito a chi si rivolge quando dice tu Stato italiano me ne dovresti comprare, non ho capito bene quest'ultima parte dell'osservazione. E se il default era di 4 miliardi e Stato italiano di questi bond che potevano essere sia governativi che non governativi, se ne cominciasse a comprare qualcuno e questi prezzi decisamente salirebbero, perché in fondo si tratta di un normale bond che ha un facciale del 2%. Vabbè Gianluca, adesso direi di non parlare di fantafinanza, rimaniamo sul concreto e parliamo dell'opportunità a disposizione dei risparmiatori che non sanno come orientarsi davanti alla nuova offerta. Voglio dire, l'importante è che lo Stato italiano riesca a piazzare bene i suoi titoli, perché abbiamo a che fare con uno scenario diverso più che imbarcarsi invece nell'acquisto delle obbligazioni argentine. Comunque la ringrazio della sua osservazione, che muoveva da un presupposto interessante, che è quello dal quale stanno muovendo in questo momento quasi tutte le associazioni dei consumatori. Meglio di niente, addirittura, insomma, c'è una visione, avvocato Fiorio, molto differente rispetto al 2005. Adesso si guarda veramente, un po' come sta succedendo in Argentina, non tanto con speranza, ma insomma proprio come una cosa nuova, molto positiva questa della seconda nuova offerta, tanto che quasi tutte le associazioni dei consumatori sono orientate a suggerire davvero prendete o altrimenti dopo questa chance non c'è più niente da fare. E insomma, voi come vi state muovendo in questo momento? Poi magari se ci aiuta a capire bene questa obbligazione par, come funziona, perché è un pochino complessa. Certo, il movimento consumatori non può che muoversi in coerenza con quelle che furono le posizioni che prese già nel 2005, cioè anche all'epoca noi consigliammo di aderire all'offerta, perché non era sicuramente un bene, naturalmente è negativo perdere dei denari investiti, soprattutto in uno Stato sovrano, ma allora e oggi ancora di più la soluzione offerta dalla Repubblica Argentina era effettivamente una soluzione praticabile, che poi nel tempo si è dimostrata la soluzione, diciamo, meno dannosa per gli investitori. Quindi se alcune associazioni che avevano dato dei consigli diversi fanno marcia indietro, a mio avviso si ravvedono rispetto a una valutazione critica che a mio avviso critica che era stata fatta 5 anni fa. Cioè, diciamo che l'unico aspetto che può generare un po' di preoccupazione è il fatto che comunque sono dei titoli che hanno una scadenza lunghissima, e per chi magari, che ne so, è portato o deve scegliere per un concambio in questo momento, magari è già 60-70 anni, i titoli a scadenza nel 2033, è chiaro che possano generare un po' nel 2038, possano generare, come dire, un po' di difficoltà in un orientamento corretto. Detto questo è quanto si offre e quanto ci dà l'opportunità magari di rientrare parzialmente degli investimenti che rischierebbero appunto molte famiglie di non vedere più. Detto questo, avvocato Fiorio, questa par... Bisogna tener conto anche di una cosa, cioè che i titoli che sono stati emessi nel 2005, che verranno emessi ad agosto, sono dei titoli che scadranno nel 2033, nel 2038, eccetera. Però sono dei titoli che avranno, così come hanno avuto quelli emessi nel 2005, una quotazione, un valore di mercato. Di conseguenza è possibile comunque liquidarli prima della scadenza e realizzare un qualcosa, infatti, o comunque percepire il rendimento che è discreto di questi titoli da qui fino al 2008. Peraltro sull'andamento del mercato secondario, le faccio solo in inciso, ci sarebbe anche un altro aspetto da raccontare, che stamattina viene molto ben spiegato dalla collega del Sole 24 Ore, Laura Serafini, sul fatto che su questo mercato, un mercato che è stato aggredito sui titoli argentini dagli investitori molto, molto importanti, che adesso approfitteranno con grande successo per le proprie tasche di questa offerta di scambio. È un altro aspetto, anche questo complesso, ci torniamo dopo. Quindi andiamo alla par, avvocato Fiorio. Ma allora, ci sono due proposte. La prima è la par, che è quella che pare oggettivamente forse un pochino più conveniente ed infatti è contingentata, nel senso che possono aderire a questa offerta PAR tutti coloro che hanno investimenti inferiori o pari a 40.000 euro, questo per ogni titolo argentino, nel senso che se si sono acquistati tre titoli per 35.000 euro si può fare la domanda di aderire per tutti e tre i titoli. Benissimo. C'è però un limite globale a questa offerta che è pari a 2 miliardi complessivi, di conseguenza qualora vi fossero richieste di adesione all'opzione PAR superiore a 2 miliardi, chi aderisce all'opzione PAR verrà di fatto spostato sull'opzione discount. Si andrà al riparto, avevo letto ieri su un'agenzia, quindi anche questa è una sorta di riparto quello che lei ci indica? Sì, cioè nel senso se ci saranno offerte superiori ai 2 milioni, in parte proporzionale rispetto alle domande di adesione, la quota eccedente verrà dirottata sull'offerta discount. L'offerta PAR in cosa consiste? Consiste nella sostituzione delle obbligazioni esistenti in default con delle nuove obbligazioni che vengono scambiate alla pari, per questo si chiama PAR, cioè ovvero chi ha investito 10.000 euro, poniamo il caso, avrà un titolo con un valore nominale di pari importo di 10.000 euro, anzi ci sarà qualcosina in più, perché verrà capitalizzata l'ultima cedola precedente al 2001 che l'Argentina non ha corrisposto, dovrebbe essere su 10.000 euro all'incirca 680 euro. Questo titolo è un titolo che avrà una scadenza lunga, nel senso che scadrà nel 2038, è un titolo che avrà un rendimento che partirà dal 2,26% e salirà fino al 4,74% fino alla scadenza. Sì. Tempo. Accanto all'assegnazione di queste obbligazioni PAR, l'obbligazionista avrà diritto a una quota in denaro che corrisponde di fatto agli interessi che l'obbligazione PAR avrebbe maturato dal 2003 ad oggi, e questo calcolando sempre un importo originario investito di 10.000 euro dovrebbero essere in circa 750 euro. Oltre a queste a questo pagamento e le obbligazioni PAR verranno assegnati dei titoli PIL che non hanno nessun diritto di restituzione del capitale, ma possono attribuire delle cedole legate all'andamento dell'economia argentina. Certo che per come si erano messe le cose fino a questo momento, sulla carta sembra così, avvocato, onestamente la miglior offerta possibile. Ma è un'offerta che sostanzialmente replica, è molto simile a quella del 2005, nel senso che anche il trascorso degli anni viene di fatto mitigato, in quanto questo pagamento in denaro per le PAR, poi vedremo, c'è un'altra soluzione per le discount, consente di percepire quelli che erano gli interessi chi ha aderito all'offerta del 2005 ha ottenuto fino ad oggi. Allora, c'è una considerazione, so che devo andare adesso a sentire suggerimenti perché in viaggio, ma Flavio da Milano voleva fare una domanda proprio a proposito dell'adesione all'opzione PAR. Flavio, abbiamo esaudito tutte le sue curiosità o c'era qualche aspetto ulteriore che voleva chiarire? Sì, volevo un'informazione, buongiorno a tutti. Volevo sapere, quindi è inutile che io corro adesso in banca, a parte che non sanno niente in banca adesso. E questo è un altro bel problema, e ha ragione Flavio, sicuramente. Quindi capire anche la dinamica della consegna dei titoli, come deve essere fatta e quant'altro. Però insomma, ci ritorneremo Flavio, magari anche proprio con queste indicazioni pratiche. Detto questo, sull'opzione... Ecco, no, volevo sapere una cosa, è inutile che io corra per primo, perché se voglio fare i PAR sarò avvantaggiato a essere tra i primi. Cioè questo alla fine loro tireranno le somme e se eccederanno questa famosa soglia dei 2 milioni ci sarà una ripartizione. Flavio, tanto io credo che molti si stiano facendo la sua stessa domanda, per cui io dubito che ci sia una corsa in questo momento alla consegna del titolo in banca per aderire all'offerta. Volevo tornare un attimo a Buenos Aires dal collega Roberto Darin, non faccio risentire questo stralcio dell'intervento di ieri del ministro dell'economia argentino Boudou a Roma, perché ruberemo spazio ai nostri ascoltatori, ma lui ha detto, Roberto, che stima rispetto alla nuova offerta un'adesione almeno del 60% degli investitori su base internazionale. Adesso non ho ben capito tra l'altro a cosa si riferisca questa percentuale. Comunque è abbastanza convinto di poter convincere la comunità degli investitori rimasti fuori dalla prima offerta del 2005. Il 60% momento è una stima a ribasso, loro credono in realtà di arrivare al 70-75%. Questo è un punto importante perché di fatto verrebbe ad essere, secondo i loro calcoli naturalmente, vanificata la controffensiva della task force argentina con una adesione molto sostenuta. Esatto. E questo quindi dobbiamo poi chiedere di nuovo all'avvocato Fiorio se conferma un elemento aggiuntivo che vale la pena i risparmiatori tengano in considerazione: la debolezza dell'ipotesi ICSID, del ricorso internazionale all'ICSID, quindi una ragione in più per aderire a questa offerta. Invece volevo rimarcare una cosa piuttosto strana che è successa in Italia ancora negli ultimi giorni. Io qui ho a che fare con tanti altri colleghi corrispondenti internazionali di altri paesi, di Francia, di Germania, di Olanda, Svizzera, Stati Uniti, e anche per loro naturalmente questa offerta è importante perché ci sono molti risparmiatori italiani, ma anche francesi, olandesi, svizzeri, tedeschi. Bene, a tutti i risparmiatori europei sono stati dati chiarimenti buoni. Invece ancora negli ultimi giorni ho ricevuto delle mail di risparmiatori italiani che mi dicevano: ma il mio consulente finanziario mi ha detto che la Consob non ha dato l'ok. La Consob ha dato l'ok. L'ok, il prospetto circola, è ufficiale, si può trovare sul sito della Consob, sì, quindi continua. È grave riguardo a questa vicenda. Quindi quando ancora nei giorni scorsi tutti i miei colleghi corrispondenti potevano registrare nei loro paesi una trasparenza informativa eccellente, da noi no, questo non è accaduto purtroppo. D'altronde la TFA è stata istituita proprio sul mandato del sistema bancario italiano, al quale è stata attribuita una precisa responsabilità rispetto anche, passatemi questo brutto termine, lo scarico di questi titoli a ridosso del default, per cui è chiaro che dall'intermediario bancario che tipo di consulenza vuoi che abbiamo in questo momento, Roberto? Hai ragione. C'è un ascoltatore che ci scrive, l'ingegner Caggese, e ci specifica un aspetto interessante a proposito del ruolo della TFA, Roberto, che tu sollevavi qualche momento fa. Lo swap, questa offerta argentina, questa seconda, viene proposta prima che l'ICSID si sia ancora pronunciata a 9 anni dal default se l'azione promossa dalla TFA sia ammissibile o meno, e questo nostro ascoltatore dice: probabilmente l'Argentina ha timore che l'ICSID potrebbe dare ragione alla TFA. Anche questa è un'interpretazione che potrebbe avere una sua validità. Io però ho 3 minuti di tempo, vorrei dare almeno 3 informazioni conclusive e pratiche ai nostri ascoltatori. Rapidissimi, chiedo Luciana da Varese e Antonio da Roma la loro domanda, così chiudiamo con l'avvocato Fiorio. Luciana, rapida, grazie. Sì, grazie. Io non ho diritto in via legale con la banca, perché mi ha detto che era inutile, è tutto regolare, potevo farne a meno. Ora mi chiedo, posso avere lo stesso, entrare lo stesso in questa offerta? Come non ha aderito in via legale? Cosa vuol dire? Non ha denunciato la banca? Non ho fatto ricorso in via legale come hanno fatto, come c'è stata azione legale. Perfetto, grazie Luciana. Antonio da Roma, rapidissimo. Velocissimo, io ho già aderito al precedente swap, sì, e da qualche parte ho letto che comunque questa offerta di scambio, sì, si estendeva anche a coloro che hanno già aderito. Vorrei, sì, capire in che misura. In grazie. Che maniera? Grazie Antonio, questo glielo confermo che l'ho letto io, anche io. Avvocato Fiori, allora da dove vuole cominciare? C'era un pezzo che mancava, ma forse non c'è tempo per parlarne, sì, che descrivere l'offerta discount. Ma io vorrei fare una considerazione generale sulla situazione. Oggi chi ha queste obbligazioni ha 2 scelte. La prima, confidare nell'esito dell'arbitrato ICSID, che sia prima della pronuncia sull'ammissibilità il termine di scadenza mi pare poco rilevante. Il fatto è che l'arbitrato ICSID è stato promosso 4 anni fa, oggi non sappiamo nemmeno se il collegio arbitrale abbia la giurisdizione. Esatto, cosa che doveva essere stata di conseguenza in mi pare che sia una prospettiva estremamente rischiosa, perché può essere anche ammissibile, ma poi dovrà essere valutato nel merito su ogni singola posizione, poi potrà esserci un appello, poi ci sarà il problema di recuperare queste somme. Avvocato, io ho pochissimo. L'alternativa qual è? L'alternativa è aderire all'offerta e prendere quello che con l'offerta viene dato, che sostanzialmente può consentire un recupero tra il 40 e il 50% nell'opzione discount, Dove ci sono i presupposti si può fare azione nei confronti delle banche. Esattamente, perché... voi su questo ieri siete stati anche molto chiari, in sostanza avete dato indicazione ai consumatori di non fermare niente in banca che escluda questa opzione, quindi anche se si dovessero consegnare i titoli per aderire all'offerta argentina, avete suggerito di non firmare niente in banca che escluda un'eventuale comunque decisione di azione legale contro questa se l'investimento è stato proposto in maniera non opportuna. Avvocato, a Flavio di Milano che chiedeva: vado subito in banca a vedere, a parte che ancora non sanno niente, ma a valutare se è il caso di consegnare immediatamente i titoli, aspettiamo ancora qualche giorno? Si può aspettare qualche giorno in modo tale che il sistema bancario sia adeguatamente informato. Sarà curioso vedere quale sarà la posizione che oggi prenderà la task force argentina di fronte a questa proposta. Che non si sa bene se ieri abbia incontrato una soluzione dissennata quale quella che consigliò nel 2005. In ogni caso, informarsi in banca, c'è anche un numero verde che io personalmente ho provato oggi, ce lo dica, che danno delle risposte. Il call center che indicavo io prima non l'ho trovato, ce lo dà il numero, avvocato? Guardi, adesso non ce l'ho davanti, si trova sul sito internet dell'offerta. In ogni caso, allora magari poi li mettiamo dubbi, sul sito, sì. Io posso dire: rivolgetevi alle associazioni di consumatori e in particolare al movimento consumatori che anche tramite il proprio sito cercherà in un qualche modo di spiegare le caratteristiche principali dell'offerta, che è molto complicata, ma sostanzialmente è l'unica strada che si ha accanto all'azione per recuperare le somme nei confronti delle banche che hanno venduto i titoli senza informare. Devo chiudere, avvocato, però confermiamo che chi ha aderito al primo swap può adesso prendere parte anche al secondo? Sì, la possibilità anche per il secondo. Sinceramente, dalle prime analisi del prospetto non è chiaro come si possa fare. Ci ritorniamo, poi volevo chiedere anche un'altra cosa. Ecco, praticamente il governo argentino ha anche detto: se aderite alla seconda offerta, scordatevi di dare mandati ad altre associazioni per tutelarvi. Credo che qui si riferisca inevitabilmente alla TFA. Ritorneremo presto su questo argomento. Intanto grazie a Roberto Darini e all'avvocato Paolo Fiorio. Da domani fino a venerdì ci sarà con voi al posto mio qui a Salvadanaio la collega Roberta Pellegatta. Noi ci sentiamo lunedì. Arrivederci a tutti.